«Allora?» domandò lui appena lei ebbe ingoiato il primo boccone. «Squisito!» rispose lei. «Squisito!» fece eco lui. Le sorrideva. «È la mia ricetta», aggiunse. «Un misto di vergogna, odio, avversione, disprezzo e nulla». Continuava a sorridere quando elencò: «Il peperoncino rosso è un coprimiserie, la vergogna della nostra cucina. Il fagiolo ha la pelle nera, un cibo da schiavi. Il riso è a stento, una materia colla da carta. Il tuorlo d'uovo puzza come un peto fifone, l'interno di un ipocrita. Le cipolle, crude, lacrime di ragazza. Cotte, pezzi di pelle morta. Quanto al merluzzo, si era alzato, guardava il mare dalla finestra aperta. Tutta la stupidità del Portogallo. Andarsene così lontano dalle loro coste per pescare il peggior pesce del mondo». Ciò detto, si mise a ballare per la stanza, improvvisando una poesia nasale metallica alla maniera dei duettisti, quei chitarristi che si sfidavano lanciandosi strofe nei mercati di Teresina. Saltava, cantando con allegra ferocia, come un bambino che si vendicasse dei bambini. Sarebbe quindi la storia di Manuel Pereira da Ponte Martins, dittatore agorafobico e nomade, che non lasciò alcuna traccia degna di memoria nei paesi che attraversò.